così mi piace, ma è da vita, manco un bombino a base, sa vita che fai di voi, sempre i casi per carità. E beh, mormiti siete, belli beh. E beh, Luca, amare o acciuga, sì, bello beh. E beh, zombie, a che siete? Graziano! Ehi, dimmi tu! Ciao! Non c'è nessuno! Tutti mossi sono! Tutti varati, tutti varati! Ma com'è la giurita marchigia a piantare crisantemi? Certo, manco io, bubu! Andiamo dove andiamo? Boh, Gianni Maria non si è sentito per nulla! Luca lo stesso! Marino, Romatesi, Bacchigio sarà in campagna. Nessuno, tutti spariti. Gli dinari salienti l'ha pigliato un capo, aveva bisogno di bruci. Andiamo, andiamo, catta, non si può lasciare un paio di dighi subito il pari tutto. Per carità, mi stavo chattando al telefonino con messaggi con Luca Flippe che si è riparato l'acqua scooter, gli ha fatto il silenziatore così non fa del rumore. Così è, andiamo, beh, andiamo. E che c'ho la macchina un po' in coso, se no me ne avevi regato il gommone che c'è lì. L'abbiamo buttato a posto. Perché non te lo metti a posto? Dove ce l'hai? In garage, ce l'ho. In garage non li puoi fare il lavoro. Cazzo in carriera ti fa. E allora? E se te ne lo fregano da lì fuori? Sotto a casa tua. Sì, certo, andiamo per... Dai, dai, vabbè, dai, ci sentiamo, grazie, che non posso stare qua, che per me figliura. Vabbè, ciao, to, alla prossima, ciao. Tore. Vabbè, lo stesso, chi si? Beh, bello, beh. Tu? Dove si? Tanta cuffetta, che facendo c'è? Ehi, Tore. Io mani! Oi, Luca, dormi così. Siamo appena rientrato, siamo usciti a fare una commissione. Siamo passati a mangiare un gelato. Adesso devo fare un lavoro per fare la cosa. Ehi, già sussito, non sussito, toccati. Stavo passando e stavi chiudendo appena. Sì, poco fa era a casa, Dio Mari, da mamma. Adesso sono qua dalla 25. Ehi, ehi. Ci sei qua però, no? Sì, mi adesso sono interrato, se non c'è sole c'è il video, mi sa che peccato ancora, lì. No, sono preparati. Sono preparati, Dio Mari, da dopo. No, io sono appena rientrato. Ok. Non si sente nessuno oggi, tutti morti sono, Vabbè, fai, vai, sono qua io fino alle 8. Hai detto, Gio Maria, stavi parlando, mi stava parlando Marina dalla tenda. Ho detto, se devi fare qualcosa, falla pure, sono qua fino alle 8. Hai capito? Non ho capito, Gio Maria, che stavo parlando con Marina, ripeti, scusa. Ho detto, se stai facendo qualcosa, fai pure tranquillo, già sono qua fino alle 8, capito? Ah, certo, i 10 minuti mi mancano, Gio Maria. Poi se ci vorrà una mezz'oretta a piazzare questa tenda, là. Perché devo fare due buchi, mettere le staffe, poi buttarla su la tenda, bloccarla, poi piazzarmi i braccetti, un'oretta, là. Dai, nel caso ci sentiamo domani, Gio Mari. Senza problemi. D'accordo, ci sentiamo, là, saluta in casa, ciao. Ciao Gio Mari, contraccambiato del tutto, ciao.